Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, questa Italia in controluce, vi parla Daniele Biacchesi. La vera mafia non è quella dei picciotti che girano con la coppola e la lupara a Corleone, che sparano in mezzo alle strade di Palermo e Catania. È roba da fiction televisiva, roba vecchia. La mafia ormai è un'altra cosa. Dietro a prestanome, dai colletti bianchi in uffici eleganti, si nascondono ormai le lavanderie della mafia. Appalti, traffico di stupefacenti, armi, usura, prostituzione, traffico di esseri umani, bische, scommesse clandestine. I soldi provenienti da traffici illegali poi devono essere riciclati. Nella terza puntata dedicata a Roma, la nostra inchiesta sulle mafie in Italia affiuta la pista del denaro sporco nella capitale. Il reportage di Monica Ceravolo. Vincenzo Alvaro arriva a Roma nel 2001 e si confonde tra la folla della capitale. Sembra uno come tanti, di quelli che arrivano dal sud senza un lavoro e ne cercano uno nella grande città, tanti come lui, che è partito dalla provincia di Reggio Calabria. Pochi sanno però che Alvaro si trova lì perché deve scontare un periodo di detenzione alternativa da sorvegliato speciale. Riesce a farsi assumere in un ristorante come aiuto cuoco e poco dopo viene raggiunto da un barbiere dell'Aspromonte, Damiano Villari, senza soldi e senza lavoro pure lui, privo, sottolineano gli inquirenti che lo arresteranno 10 anni dopo, privo di qualsiasi ricchezza o mezzo di sostentamento. In un decennio accumulano una fortuna che vale 200 milioni di euro, tra contanti, società e attività imprenditoriali, tra cui spicca il prestigioso Café de Paris, che da solo vale 55 milioni. Mica male per due che risultavano nulla tenenti. Come hanno fatto? Investendo, secondo gli investigatori e la Guardia di Finanza, denaro di provenienza illecita, attraverso quello che è stato ribattezzato per l'occasione il metodo Alvaro. Proprietà nascoste dietro prestanome, trasferimenti anonimi tramite trust e con l'aiuto di professionisti che risultano indagati, si intrufolano all'interno delle società e le fagocitano, con una preferenza per le attività di ristorazione, senza disdegnare però le compravendite immobiliari e i centri benessere. Il tutto in nome e per conto della cosca dei Testazzi, ndranghetisti del Reggino, di cui Vincenzo Alvaro è ritenuto esponente di spicco e referente per gli affari che si sono conclusi o da concludere nella capitale. Perché Roma fa gola alle mafie, mentre stuzzica gli appetiti della piccola criminalità, che vive di spaccio, truffe e di usura. Quello di Alvaro è solo uno degli ultimi numerosi casi emersi. Piero Grasso, procuratore nazionale antimafia. La criminalità organizzata a Roma non è assolutamente una novità. Addirittura Buscetta parlava di una decina di Cosa Nostra che era installata proprio a Roma. Ma questa decina era assolutamente invisibile perché curava i rapporti esterni di Cosa, le relazioni esterne di Cosa Nostra nella capitale, quindi anche contatti con la politica, quindi anche contatti con l'imprenditoria e con gli affari. Oggi possiamo dire che, senza per questo lanciare allarmi ingiustificati, che la criminalità organizzata è presente nella capitale per l'attività di riciclaggio, investimento di capitali in attività commerciali, imprenditoriali. Soprattutto abbiamo trovato parecchie attività della 'ndrangheta nella ristorazione, nella gestione di bar e nella gestione di ristoranti e della camorra. Questa è una caratteristica di Roma, città aperta, per usare il titolo di un celebre film, città aperta a tutte quante le criminalità che vogliono mimetizzarsi negli investimenti produttivi nella capitale. C'è la 'ndrangheta dunque, c'è anche la camorra, anche a questa fa gola la ristorazione. Lo dimostra l'inchiesta sul riciclaggio che ha coinvolto l'imprenditore, incensurato fino allo scorso mese di giugno, Marco Iorio, accusato di aver investito i soldi della camorra in pub e ristoranti, soprattutto in Campania, ma anche a Bologna e a Genova. L'inchiesta è quella che ha travolto l'ormai ex capo della squadra mobile di Napoli, Vittorio Pisani, sospettato di avere protetto il suo amico imprenditore al centro delle indagini. La stessa inchiesta ha sfiorato anche il calciatore Fabio Cannavaro, socio, ritenuto in buona fede, di Iorio, in alcuni ristoranti e suo amico, al punto che mentre la polizia cercava l'imprenditore in Italia per arrestarlo, questo era a Miami con il calciatore, dove insieme gestiscono un locale. una tranche di questa inchiesta rischia adesso di affondare le mani nelle attività commerciali della capitale. Intercettazioni in mano agli inquirenti hanno infatti fatto sorgere più di qualche sospetto su alcuni locali della Roma Bene e ora potrebbero aprirsi nuovi fronti di indagine. A Roma assistiamo, come anche in altre città d'Italia, a un cambiamento repentino di ragioni sociali. Un negozio apre, sta un anno aperto, poi cambia completamente, o cambia proprietario oppure cambia addirittura oggetto di attività. Dei filtri di controllo si possono fare, perché nel momento in cui si apre un negozio, nel momento in cui si dà una licenza commerciale, si potrebbero approfondire gli accertamenti e cercare di capire da dove provengono i soldi. Gli investigatori che hanno decifrato il metodo Alvaro applicato per acquisire le attività commerciali hanno sottolineato l'elevato livello di penetrazione raggiunto dall''ndrangheta nel tessuto economico capitolino, inquinato, dicono, dal massiccio impiego di capitali di dubbia provenienza. Ormai il problema delle infiltrazioni mafiose nell'economia romana sana viene percepito anche da chi vive il territorio. Nel corso di una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è svolta alla fine di giugno in prefettura a Roma, è stato sottolineato che non si possono ignorare situazioni di allarme, soprattutto in alcune aree della città, sia per la presenza di referenti delle principali famiglie mafiose camorristiche dell''ndrangheta, sia per i grandi investimenti che questi concludono. I principali settori di interesse da parte della criminalità organizzata sono stati individuati nel commercio, la ristorazione, l'abbigliamento e le concessionarie d'auto, e recentemente anche nei punti vendita in franchising per il noleggio dei film. Per combattere a monte il rischio di infiltrazioni mafiose, è stato deciso di attenzionare i subentri ripetuti all'interno di ristretti archi temporali nelle medesime licenze commerciali e le ripetute volture, i trasferimenti di rami d'azienda e gli avvicendamenti nella titolarità delle imprese. I dati saranno trasmessi dal Comune e dalla Camera di Commercio alla Prefettura e laddove dovessero emergere fatti sospetti verrà informata la Guardia di Finanza. Maurizio De Lucia, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, sottolinea che il problema è che ci vuole più trasparenza dei mercati, maggiore tracciabilità dei flussi finanziari, capacità di sapere da dove vengono i denari. Ecco, se noi riusciamo a ricostruire la traccia dei denari rendiamo molto difficile alle mafie investire i loro denari e quindi inquinare il mercato legale, vale per Roma ma vale per tutte le città d'Italia naturalmente, con i fondi che derivano dalle attività criminali. L'ultima manovra finanziaria, che ha lo scopo naturalmente di evitare la circolazione di denaro contante al fine di contrastare l'evasione fiscale, ma ben venga, perché è uno strumento molto utile quello della tracciabilità anche per contrastare la circolazione dei fondi criminali. A Roma dobbiamo dire che tutte le mafie hanno un interesse a esserci, perché appunto è luogo nel quale si possono fare gli investimenti, e infatti le più recenti indagini sia della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che di quelle di Napoli e di Reggio Calabria ci hanno portato a vedere come nel tessuto economico della città si registrino infiltrazioni criminali con investimenti soprattutto nel settore della ristorazione o anche in quello degli investimenti immobiliari. Ecco, questi sono settori nei quali le imprese mafiose, dunque le mafie, che a differenza delle imprese tradizionali, delle imprese lecite, hanno un problema di liquidità inverso, nel senso che hanno un sacco di soldi che vengono al traffico di stupefacenti e quant'altro e che devono investire, beh, quelli investono dove ci sono occasioni. Roma è una città in questo senso che di occasioni ne offre molte e quindi è una città nella quale noi troviamo presenze criminali organizzate a livello molto sofisticato, cioè a livello appunto di investimenti economici. Diverse organizzazioni criminali condividono dunque lo stesso territorio, riescono a spartirsi lo spazio e gli affari. Una convivenza in nome del business, un equilibrio che si basa sui denari. Esistono una serie di affari che le mafie cercano di cogliere, le mafie che conosciamo, quindi Camorra e 'Ndrangheta in particolare in questo momento. Per il momento in ottimo accordo fra loro a quanto pare, e questo non vuol dire che la situazione di pace sia destinata a rimanere in eterno questa per quanto riguarda queste mafie su quel territorio. Certo è che l'uso della violenza a queste mafie non conviene, l'uso della violenza si esercita sul territorio dove si comanda, ma si cerca di evitarla nel territorio dove si investe, perché gli affari hanno bisogno soprattutto di tranquillità e questo le mafie lo sanno bene. E alla seconda edizione di Italia in Controluce torniamo domani con la pillola alle 6:30 legata a temi di stretta attualità.